Siria, l'autostrada della guerra e i reduci dell'ISIS. E poi oggi è San Valentino, amori proibiti tra India e Pakistan. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The humanitarian organization reports that at least 290,000 children have been displaced in sub-zero temperatures in Syria. Journalists, anchors, पिछले चंद दिनों से उस मामले में उलझे हुए हैं कि क्या वो उनकी मनकूहा बेगम हैं कि नहीं. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Vi porgo tutti i saluti anche dalla squadra di Nessun Luogo Lontano: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani che è in console. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp per domande, commenti e anche critiche, perché no? Vi raccomando, le uniche semplicissime regole in quest'ora di trasmissione: non ammettiamo commenti razzisti, xenofobi e sessisti e volgarità. Per tutto il resto, liberissimi di commentare e criticarci anche sulle pagine Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Oggi torniamo a fare il punto innanzitutto su quella che è la lunga battaglia per Idlib. Stiamo in Siria, ma con un piccolo approfondimento su quello che resta dei militanti dell'ISIS. Vi ricordate il lungo, lunghissimo e mai risolto dibattito di quei prigionieri e prigioniere che sono ancora nelle mani dei curdi e che l'avanzata turca, ormai datata qualche mese fa, per creare quella fascia di sicurezza di una trentina, ormai quasi 45 chilometri nell'interno della Siria, sta mettendo decisamente a rischio, nel senso che la Turchia dice che una volta eventualmente presi se li deve gestire l'Europa. I curdi per il momento resistono e li tengono per quel che si può, ma esiste un grandissimo punto di domanda su almeno 2000 miliziani. E poi c'è l'autostrada della guerra, così l'abbiamo definita, perché proprio ieri, tra l'altro ieri e ieri, il regime di Assad ha definitivamente conquistato la M5, che è l'autostrada, forse l'arteria principale di tutta la Siria. La attraversa da sud a nord e consente, secondo un report di AP, Associated Press, pensate, uno scambio di decine di milioni di euro ogni anno, scambi commerciali, vitali, generi alimentari, masserizie, beni agricoli. In sostanza è come se fosse l'arteria aorta per la Siria. Ecco, dal 2012 Assad non la controllava e questo evidentemente è un tassello importante in vista della presunta possibile riconquista di Idlib. Poi, siccome San Valentino, come dire, abbiamo ceduto per un attimo anche a un argomento più leggero, ma scoprirete che non è tanto leggero. Amori proibiti tra India e Pakistan nel 2020, ancora da una parte tradizioni culturali, da una parte l'ultranazionalismo indù di Modi, fanno sì che le giovani coppie non possano festeggiare questa festa come chiunque altro. Detto ciò, la prima cosa da fare è andare a misurare la temperatura. La prima notizia di cui vi parlo e che ha catturato la nostra attenzione ci porta ancora una volta in America Latina. Ieri abbiamo dedicato ampia parte della trasmissione in qualche modo a ricapitolare quelli che sono i dossier aperti, e partendo proprio dalle violenze dei narcotrafficanti in Messico. L'Honduras per molti anni e molto spesso è alla testa dei paesi più violenti del mondo, pensate. Le gang criminali sono molto attive e vanno a drenare anche l'economia locale. Quello che accade a un certo punto è che quando si mette le mani, per esempio, su uno dei leader di uno delle gang, la MS-13, una delle gang più potenti di tutto l'Honduras, il leader si chiama Alexander Mendoza, ma conosciuto come El Porky, succede che viene scortato dalla polizia nell'aula del tribunale dove deve essere processato, e a un certo punto compare un manipolo di poliziotti armati di tutto punto, che però poliziotti non sono, sono piuttosto appartenenti alla gang MS-13, e uccidendo i poliziotti, quelli veri, riescono a liberarlo. In Sudan, apriamo quel capitolo, dopo la notizia, vi ricordate, ve l'abbiamo data un paio di giorni fa, della probabile, anzi ormai quasi certa, ma futura, vediamo i tempi, consegna di Omar al-Bashir alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Una nuova mossa del governo di transizione è arrivata proprio ieri, una mossa che si inserisce in un lungo processo di normalizzazione dei rapporti del Sudan rispetto al resto del mondo. Ricorderete che in questo momento esiste un governo di transizione in cui sono presenti sia elementi militari che elementi civili. Ebbene, per capire questa storia bisogna fare un passo indietro nel tempo, e di parecchio, di 20 anni. Era il 2000. Una nave da guerra statunitense, la USS Cole, era ormeggiata in un porto in Yemen. Fu bombardata da Al-Qaeda. 17 marinai statunitensi morirono in quell'occasione. Due degli attentatori erano stati addestrati e avevano trovato rifugio proprio in Sudan. Per questo motivo gli Stati Uniti, non solo per questo, ma fu uno dei detonatori più eclatanti di quella condizione, per questo motivo, dicevo, gli Stati Uniti misero il Sudan nella cosiddetta blacklist, cioè paesi da tenere d'occhio, da sanzionare, da embargare, eccetera. Ebbene, il governo di transizione, proprio in un'ottica di apertura, di cercare di uscire, tentativo di uscire dall'isolamento, ha accettato sostanzialmente di risarcire le famiglie dei 17 marinai che morirono appunto nel 2000. Non è stata ufficialmente data la cifra, ma secondo fonti vicine alla Reuters si parlerebbe di 30 milioni di euro di dollari, scusate, che il governo di transizione ha immediatamente messo a disposizione delle vittime, chiedendo però agli Stati Uniti di essere stralciato da questa lista nera. Sempre parlando di Sudan, oggi a Sant'Egidio si è concluso e si sta aspettando la conferenza stampa. Stiamo cercando di tenere un occhio alle agenzie per capire se vi saranno notizie. Dicevo, si è concluso un round negoziale a seguito degli accordi del cessate il fuoco firmato, sto parlando del Sud Sudan adesso, lo scorso 12 gennaio. Vi sono stati osservatori internazionali, membri del governo e membri dell'opposizione. Stiamo tenendo d'occhio le agenzie per capire se uscirà qualcosa di eclatante. Lo sapete, la comunità di Sant'Egidio è molto attiva anche in contesti estremamente difficili per fare proprio da mediatore di pace, e vedremo se questo primo round di consultazioni avrà il successo che tutti sperano. Ultimo dossier che apriamo in questo lungo termometro internazionale riguarda la Libia. Arrivano notizie di nuovi scontri, soprattutto attorno a Tripoli. Ancora una volta ci duole sottolineare come il presunto embargo non ha mai funzionato, come il cessate il fuoco non ha affatto funzionato. Il generale Haftar continua a premere alle porte di Tripoli, e poi faremo il nostro solito countdown. Ormai la sua arma più affilata, se volete, è stata quella di chiudere i rubinetti del petrolio, cercando di strozzare in qualche modo l'economia libica, e su tutti ovviamente la NOC, cioè l'organizzazione petrolifera libica. Una notizia interessante ci viene però dalla Russia, in particolare dalla regione di Orenburg, perché poche ore fa c'è stato il funerale di un militare. Non si trattava di un contractor, ma un militare a tutti gli effetti, che secondo le fonti giornalistiche, in particolare la BBC, era morto in Libia. Questo andrebbe a corroborare l'ipotesi secondo cui oltre ai 600, almeno 600 contractor della Wagner, ma si parlava di almeno altre due società di contractors, starebbero combattendo, spalleggiando il generale Haftar. Ma a questo punto, come era anche abbastanza facile e intuibile, vi sarebbero anche appunto elementi dell'esercito regolare russo. A questo punto, anche quest'oggi, mi duole giù tutto il countdown. Bengasi ha 13 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 9 di gasolio, 10 di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, 2 giorni di gasolio e 4 di GPL. Sebaa non ha più capacità di stoccaggio di benzina e GPL, mentre ne ha 16 di gasolio. Nell'ultimo bollettino, la NOC conferma la diminuzione della produzione di petrolio a 163.684 barili al giorno, causato dal blocco dei porti da parte delle milizie di Haftar. Pronti per aprire la prima pagina di Nessun Luogo è Lontano, tornare ad aggiornarvi su tutto ciò che sta accadendo in Siria. Sono due le notizie, dicevo, preponderanti in queste ore. Da un lato continua l'offensiva per la presa di Idlib, dell'intera provincia. La città ancora resiste, la morsa di Assad si fa sempre più stretta, supportato dall'aviazione russa, con tutte le conseguenze del caso: la presenza turca dall'altra parte del fronte, le scaramucce, ben più che scaramucce, i morti da una parte e dall'altra, rivendicazioni, l'elicottero abbattuto proprio pochi giorni fa, insomma una situazione che potrebbe essere esplosiva. In tutto ciò per Damasco arriva una buona notizia: la riconquista fondamentalmente di quella grande arteria, l'autostrada M5, un'autostrada che congiunge il sud, poi Damasco e poi praticamente il nord del paese, e dovrebbe poter restituire linfa vitale all'economia del regime di Damasco. In tutto ciò, come vi dicevo in apertura, c'è un grande buco nero, c'è un grande punto di domanda. Centinaia, se non migliaia, il numero non è facilmente calcolabile ovviamente, di non soltanto combattenti, ex combattenti dell'ISIS, ma anche combattenti stranieri dell'ISIS, i cosiddetti foreign fighters. Buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Daniele Ranieri, fresco per così dire, di Siria. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Daniele Ranieri è giornalista della redazione esteri del Foglio, lo ricordo, si occupa soprattutto di Medio Oriente e, inutile ribadirlo ma lo faccio ogni volta, Daniele parla fluentemente l'arabo, conosce molto bene quei territori e quindi ha un punto di vista assolutamente unico e privilegiato su quelle vicende. È appena tornato in Siria, dove sostanzialmente hai raccontato, Daniele, da un lato le ceneri dello Stato Islamico, anche con degli afflati quasi nostalgici dalle voci che hai raccolto, quasi un amarcord di quelle strade di Raqqa dove la Sharia vigeva come l'ISIS voleva, appunto, dove vi era un ferreo controllo degli affiliati. E dicevo, appunto, sei riuscito a visitare alcune prigioni dove sono detenuti alcuni foreign fighters. Hai pubblicato questi reportage sul Foglio. In particolare, partiamo dal carcere di Al-Hazak, dove i curdi tengono prigionieri alcuni combattenti. Qual è l'atmosfera che si respira in un carcere come quello, Daniele? Sospensione, perché i detenuti sono tenuti completamente all'oscuro di quello che succede all'esterno. Quindi quando li intervisti alla fine ti sussurrano, anche se sanno che è vietato, ti sussurrano che cosa sta succedendo fuori. Lo Stato Islamico è ancora vivo? È quello, perché loro sono, diciamo, un po' come, diciamo, i soldati giapponesi abbandonati sugli atolli in mezzo al Pacifico e che non sapevano che la guerra era finita, e cercano in tutti i modi di avere notizie dall'esterno, ma una delle condizioni per poter intervistare questi detenuti è non rivelare che cosa è successo. In particolare il direttore del carcere ci ha detto di non rivelare che Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso, sì, non rivelare che gli americani e le truppe americane si sono ritirati da buona parte della Siria occidentale per concentrarsi in alcuni posti in particolare, e di non rivelare che c'era stata un'offensiva turca contro i curdi, che quindi, diciamo, rende molto meno stabile la situazione. Ecco, sì, queste tre cose in particolare non si possono rivelare, altrimenti hanno paura di una rivolta dentro il carcere che potrebbe, diciamo, così andare fuori controllo, perché sono 5.000 i detenuti dentro il carcere, quindi non è un numero basso, sono 5.000 e sono tutti veterani dello Stato Islamico che hanno resistito fino alla fine. Sì. Sì. Quindi l'atmosfera per ora adesso è di attesa, ecco. 5.000 miliziani che hanno subito non soltanto l'addestramento ma hanno poi combattuto, conoscono la prima linea. Giustamente Daniele Ranieri sottolinea la pericolosità di quello che è un numero che potrebbe sembrare relativamente esiguo, mettiamola così, ma teniamo conto di combattenti molto addestrati e soprattutto molto motivati. In uno dei tuoi interessantissimi reportage pubblicati sul Foglio, Daniele, ho letto di come vi fosse quella nostalgia a cui facevo riferimento prima, ma soprattutto nel campo di Al-Hol e nella sezione femminile, diciamo, no? Come se vi fosse un tempo magnifico, un Eldorado che era stato creato dal califfato, e questa strana tensione delle donne che ha intervistato un po' vorrebbero tornare in Europa, magari salvare i figli, consegnarle un futuro migliore, dall'altra parte quasi una speranza ridotta al lumicino che quello Stato Islamico riesca a rifondarsi. Come spiegare questo comportamento quasi schizofrenico? Ma guarda, hanno con il lavaggio del cervello, perché quando si cita Raqqa, quando si citano gli anni d'oro del califfato, diciamo fra il 2014 e il 2017, a queste donne vengono proprio gli occhi a cuore, perché ne parlano come se fosse l'esperienza più bella della loro vita. Mentre camminavo, stavo facendo fotografie, una turca si è messa a inveire dicendo: non farmi fotografie, non puoi fare fotografie. Le ho chiesto perché, perché non sei musulmano. Le ho detto: come fai a dire che non sono musulmano? Perché se tu fossi musulmano mi porteresti via di qua. Loro si aspettano un grande attacco dello Stato islamico per liberarle per riportarle di nuovo fuori. Poi ho intervistato un paio di italiane. La seconda intervista in realtà non ho scritto nulla, perché non è stata un'intervista. Ho cercato di parlare con questa italiana per, diciamo, che insomma era, si vedeva chiaramente che era un problema, è lì con due figli, è molto giovane, ha 23 anni, è Maria Khadija, che è, diciamo, molto nota sui miei italiani. E però niente, io le chiedevo: ma veramente tu pensi che lo scopo del tuo gruppo sia conquistare prima Istanbul e poi Roma? E lei diceva: c'è scritto nel libro, come dire, è scritto così, e quindi si deve realizzare, non sta a te, non sta a me, è scritto nel libro, come se fosse un destino che comunque si realizzerà. Di fronte a queste risposte, cioè, c'è poco da fare, non sono, come dire, è difficile veramente vedere qualche cambiamento in loro, sono proprio cocciutissime. Sì, un'adesione fideistica a questo obiettivo, che chiaramente è assolutamente benefico, si poggia su logiche per noi assolutamente irrazionali, direi, e inoltre che terroristiche e benefiche, però fa sì che le persone che ha incontrato ancora non riescano a scrollarsi di dosso quell'età d'oro, peraltro molto molto recente. E questa cosa qua, fra l'altro, tu scrivi un passaggio, Daniele, molto interessante. Sul pezzo che ho riletto prima dicevi: sono donne a cui, in particolare ti riferivi a una, a cui non voltare mai le spalle, come dire, alludendo al fatto che sono donne la cui motivazione è così forte che potrebbero trasformarle in combattenti tranquillamente. Sì, senz'altro. Il giorno prima della mia visita al campo di Al-Hol avevano ammazzato uno, e poi non so se è facile trovare sui social media la foto di una guardia curda con un coltello infilato nella schiena che si sta facendo curare in infermeria. Hanno ucciso decine di donne perché, diciamo, non volevano più rispettare le regole, non volevano più vivere come se fossero ancora sotto lo Stato islamico, e quindi la fazione delle fanatiche dentro il campo le ha uccise. Quindi sono molto violente, sono molto pericolose, diciamo. Chiarissimo. La voce che sentite è quella di Daniele Raineri, giornalista del Foglio, esperto di Medio Oriente, appena tornato dalla Siria, dove ha realizzato una serie interessantissima di reportage pubblicati appunto sul Foglio. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande, riferito alla questione di Idlib. Un ascoltatore: stanno per incidere un bubbone che rischia di diffondere ancora di più i germi dell'estremismo. L'Europa dovrà farsi una seria domanda su cosa fare con eventuali esuli di Idlib. Diciamo che la Turchia sta cercando di attrezzarsi su quella possibile nuova crisi umanitaria, che è già reale, perché stiamo parlando di centinaia di migliaia di profughi che stanno scappando. Se non erro, avevamo dato i numeri un paio di giorni fa, erano 500.000 dall'inizio dell'offensiva, quella un po' più forte, diciamo, di dicembre, ma adesso verifico i numeri. Detto ciò, dicevo, la Turchia già si sta attrezzando con quella creazione della zona, la fascia cosiddetta di sicurezza, e poi più volte Erdogan ha mandato dire all'Europa che se vi fosse un ulteriore afflusso dovrà chiedere aiuto all'Europa, inteso finanziariamente e monetariamente, ed è sempre utile ricordare i quasi 6 miliardi di euro già stanziati dall'Unione Europea per la gestione dei flussi migratori. Daniele Raineri, l'ultima domanda, poi ti lascio al tuo lavoro, ringraziandoti come sempre della tua partecipazione. Il nuovo scenario che si sta profilando in Siria è di un Assad sempre più forte, con la riconquista di questa arteria autostradale, con diciamo un'economia che potrebbe cercare di ripartire, nonostante comunque siamo tuttora in guerra, con la Russia che continua a supportarlo e una Turchia che comunque si sta attestando lì. Questo semi disimpegno statunitense riesce a fare una proiezione da qua ai prossimi mesi, intanto su Idlib, se e quando verrà presa secondo te, e poi in più in generale questo riassetto della Siria con un Assad padrone del terreno, ma in realtà poi nelle mani totalmente di Putin. Non so se condividi questa sommaria analisi. Quello che bisogna capire adesso è che non è più la guerra dei primi anni, in cui i combattenti stavano alla gola del nemico e c'era la guerra, come dire, all out, tutto lo sforzo, sì. No, tutto lo sforzo per raggiungere il risultato. Adesso in Siria vige tutta una serie di accordicchi, di patti locali e anche più generali, e la guerra, diciamo, avanza fino a quando l'accordo lo permette, quindi Turchia e Russia hanno deciso di partirsi Idlib, e a volte ci sono dei, come dire, ci sono delle infrazioni a questi accordi che vengono punite pesantemente. Per esempio, adesso l'esercito siriano ha attaccato i turchi e i turchi stanno rispondendo, sì, con molta violenza. È notizia di qualche ora fa che un secondo elicottero è stato abbattuto, quindi è probabile che i turchi stiano, diciamo, facendo arrivare vicino a Idlib delle armi antiaeree che prima non c'erano. Sì. Ecco, comunque la guerra è tutto così, una serie di accordi che vengono continuamente rinegoziati, rimodulati, e decidono le avanzate, i ritiri, ecco, una cosa importante anche da ricordare è che in tutta questa serie di accordi sono esclusi i civili, che infatti non fanno altro che scappare da una parte all'altra. Sì. E quindi trovo anche un po', diciamo, deumanizzante, come ha fatto l'ascoltatore, definire un bubbone inciso. In realtà ci sono 3 milioni di persone, certo, che hanno avuto soltanto la fortuna di trovarsi nel posto sbagliato. Diciamo. Certo, ancora una volta questa strana diplomazia sotterranea, a volte neanche tanto, non tiene conto della parte fondamentale, la parte più vulnerabile, più fragile, appunto quella dei civili. Spesso ricordiamo come alcune ONG con grande difficoltà provino ad operare e a supplire alle mancanze di tanti attori, in primis lo Stato siriano. Grazie mille Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Alla prossima, Daniele. La lunga prima pagina, tutta dedicata a fare il punto sulla Siria. Da un lato, ripeto, l'avanzata del regime siriano di Assad con la riconquista dell'autostrada M5, che peraltro potrebbe e dovrebbe anche dare maggiore fluidità logistica anche alle operazioni militari. Dall'altro, i continui scontri tra siriani e turchi, che secondo alcuni analisti rischiano di incendiare ulteriormente quel quadrante. In mezzo, due grandissimi punti di domanda. Da un lato, i reduci dello Stato Islamico, 5.000 circa, di cui almeno 2.000, se non erro, combattenti stranieri, foreign fighters, per ora nelle mani dei curdi, ma dobbiamo ricordare che i curdi sono sotto la pressione turca. L'altro grande punto di domanda, i milioni di civili che per il momento non hanno altra possibilità se non scappare dalle bombe. Direi di chiudere la prima pagina tutta dedicata al conflitto siriano. 16:30, 03 secondi, andiamo a sentire l'informazione finanziaria. Poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Tra, la, la, tra, la, tra. In your stride we is pleasure, boom, she pleasure. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buon venerdì da parte di tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano. Tra poco vi augureremo anche buon San Valentino, naturalmente a modo nostro cercheremo di trattare questo tema, il tema dell'amore, portandovi in luoghi apparentemente lontani. Prima però due punti velocemente. C'è una domanda di un ascoltatore che si chiede come mai il coronavirus non è ancora arrivato in Africa. Non lo trovate strano? Chiede l'ascoltatore. E cosa succederebbe se arrivasse in Siria? Allora, premesso che la maggior parte dei casi sono ovviamente nella regione di Hubei, sono in Cina, poi nei paesi vicini, la maggior parte sto dicendo. Evidentemente, ma non ho le competenze mediche per dirlo, non ha avuto la forza di propagazione per arrivare ancora in Africa. Detto ciò, se arrivasse in Siria, la domanda è interessante perché sembra quasi un caso ipotetico. Prendiamo il caso di Ebola in zona di guerra. Questo credo che fosse il senso della domanda dell'ascoltatore e mi pare molto interessante. A quel punto, se si scatena un'epidemia in una zona di guerra, come è accaduto nel Nord Kivu, nord-est del Congo, dove per esempio le cliniche di MSF sono state bruciate, dove vi sono milizie che sparano tutti i giorni, ecco, si creano dei problemi, si stratificano problematiche che rendono difficilissima l'identificazione dei casi, ovviamente la cura e ovviamente l'isolamento. Molti malati di Ebola durante i combattimenti sono scappati e immaginate come me che nel fuoco incrociato anche per un medico è molto molto difficile non soltanto curare ma anche identificare i casi. Quindi questa, diciamo, ipotesi del terzo tipo, speriamo molto lontana, è impossibile, è interessante come caso di studio. È successo ed è francamente un disastro. Prima di aprire la pagina, diciamo, dedicata a San Valentino, c'è un aggiornamento interessante che riguarda Omar al-Bashir, l'ex presidente dittatore per molti sudanese. Intervistato dalla BBC, uno dei dirigenti di Human Rights Watch, che ha parlato con i militari sudanesi, ha detto che la corte stessa, la Corte Penale Internazionale, potrebbe spostarsi dall'Aia e arrivare a Khartoum per processare in loco Omar al-Bashir. In realtà non è spiegato per quale ragione si voglia evitare l'estradizione di Omar al-Bashir, però è interessante perché, come dire, pare che il dibattito sia assolutamente aperto e la via, diciamo, spianata verso la Corte Penale Internazionale per rispondere dei crimini contestati al vecchio ex presidente. Allora, detto ciò, vi dicevo del nostro San Valentino. Il nostro San Valentino ci porta in India. Ho 22 anni, un fidanzato e vivo a Delhi. Questa sera è San Valentino, ma entrambi viviamo ancora con i nostri genitori. Vorremmo vederci, ma in India non è affatto facile, perché il sesso prima del matrimonio, diciamo che non è ben visto. L'unico modo per stare insieme è trovare una camera d'albergo. Lumpa, Lumpa, welcome to Sri Lanka Customer Care. If you have already made a booking, press 1. If you have not made a booking, press 2. Da qualche anno in India sono nate diverse piattaforme come Stay Uncle o Love Stay, che permettono di prenotare camere in alberghi sicuri e che non chiedono ai loro clienti se sono sposati o no. Possiamo prenotare una stanza anche solo per una notte e nessuno ci ha mai chiesto niente. E a volte lui mi ha fatto anche una sorpresa. Le coppie possono prenotare dei regali da dare ai loro compagni per rendere la loro esperienza davvero indimenticabile. Il racconto di una ricerca di una camera d'albergo per una coppia che non è regolarmente sposata. Racconto, ci si è cimentata Ilaria Sesana, ha percorso migliaia e migliaia di chilometri, l'abbiamo fatta evidentemente a distanza, e la voce che avete sentito peraltro in chiusura di questa fotografia sonora era quella di Sumit Anand, fondatore e amministratore delegato di che cosa? Di Love Stay. È una piattaforma che mette a disposizione 500 hotel sicuri in oltre 40 città di tutta l'India. Perché vi parliamo di questo aspetto? Perché in India baciarsi in pubblico o anche semplicemente tenersi per mano è considerato immorale. Il sesso prima del matrimonio è un tabù radicato e normalmente le giovani coppie, sia maschio che femmina, vivono con le famiglie prima di contrarre il matrimonio. A questo punto queste start-up che hanno realizzato le piattaforme cercano di venire incontro a un'esigenza che arriva dalla società civile indiana. Proviamo a capire di più come si innesta nella cultura indiana quello che per alcuni è assolutamente la rottura di un tabù. E lo facciamo con Francesca Recchia, direttore dell'Istituto Afghano per l'Arte e l'Architettura e uno dei fondatori di The Polis Project, un progetto indipendente di giornalismo e ricerca. Conosce molto bene l'India, l'Afghanistan, il Pakistan. Buongiorno Francesca, ben ritrovata. Buongiorno. Allora, che cosa significa per la società indiana dover ricorrere, per i giovani ma anche non giovani, comunque non sposati, cittadini indiani, dover ricorrere a una piattaforma per incontrarsi segretamente? Cosa riflette della società? Cosa ci dice? Ma guarda, credo che la questione sia che negli ultimi anni è come se si trovassero due forze contrapposte che tirano in direzioni opposte. Una sempre più conservatrice, sempre più tradizionalista, e una ovviamente più radicata con tra le giovani generazioni, più indipendente e più tra virgolette moderna. Quindi c'è chi vive un revival tanto legato all'identità indù e quindi allo sposare i valori tradizionali, sì, della castità, e dell'intimità fisica ed emotiva legata esclusivamente al matrimonio, spesso deciso dai genitori, e chi invece rivendica uno spazio di indipendenza e di scelta legata alla propria emotività come, certo, scelta e diritto individuale. Certo. Quindi in India adesso la tecnologia, dicono tutti per scherzare che c'è un'app per qualsiasi cosa, e ovviamente adesso c'è anche un'app per potersi incontrare liberamente. Sì. Quindi diciamo che la tecnologia viene a dare una risposta a tutta una fetta di popolazione che si trova un po' incastrata in un ritorno ai valori tradizionali. Sì. Tra le risposte che Ilaria Sesana ha trovato c'è, per esempio, si può fare una ricerca per slot orari, no? Dalle 9 di sera alle 9 del mattino, per esempio. Sulla piattaforma LoveStay ci sono 59 safe hotels, cioè hotel in cui è garantito anche l'anonimato, l'arrivo, non ci sono, come dire, sguardi indiscreti a Delhi. Alcune stanze abbiamo trovato che non erano più disponibili, forse perché appunto oggi è San Valentino, poi a Delhi erano già le 6 di sera, insomma, immaginate, c'è anche un mercato da questo punto di vista. Una stanza al Blue Pebbles Hotel, per esempio, costa 850 rupie a notte, che sono circa 10 euro. Ora, al di là, questa pagina di Nessun Luogo del Lontano, che potrebbe sembrare una pagina puramente di costume, se andiamo a vedere la recente storia che riguarda soprattutto una tendenza nazionalista indo ultranazionalista, il BJP di Narendra Modi, vi sono state vere e proprie scorrerie e ronde da parte di militanti particolarmente attivi che, pensate, entravano nei bar cercando di menare le mani verso le coppie che semplicemente o si baciavano o si tenevano per mano. È una questione, Francesca Recchia, di secolarizzazione della società o c'è dell'altro? Cioè, quanto la religione impatta e quanto invece è costume tradizionale? Guarda, il problema è che negli ultimi 4 anni con la salita al potere di Modi e del BJP c'è un ritorno all'identificazione fra la società civile e più che altro fra la società indiana e la religione indù. Quindi ogni deviazione da una lettura estremamente conservativa della religione, sì, viene a livello istituzionale, a questo punto, viene opposta in maniera abbastanza radicale, direi. E la cosa che sta succedendo è che chiaramente, diciamo, delle frange tradizionaliste o ultra-tradizionaliste, soprattutto fra gli indù, sono sempre esistite. La violenza aperta nei confronti di chi oppone questa visione è in qualche modo avallata da una possibilità politica che prima non esisteva. Chiarissimo. Quindi secondo me è questa la vera trasformazione negli ultimi anni. Chiarissimo. E aggiungo un ultimo tassello, Francesca Recchia, prima di ringraziarti, salutarti e lasciarti al tuo lavoro. Anche la Corte Suprema indiana si è pronunciata e in tantissime sentenze, aggiungendosi alle sentenze dei tribunali ordinari, ha sancito che i rapporti tra coppie non sposati sono legali. Nonostante ciò, è come se questa linfa politica che viene immessa nella società sia così forte da creare questa distorsione che tu molto bene illuminavi. L'ultimissima domanda, Francesca, telegrafica se riesci, può la tecnologia, può un'app come questa essere un formidabile grimaldello per la società civile per andare a scardinare questa sovrastruttura così opprimente per una larga fascia della popolazione? Cioè, può essere questa la chiave, l'high-tech, l'app? Sicuramente non la soluzione, ma un piccolo spiraglio verso una strada lunga e complicata di secolarizzazione e liberalizzazione, senz'altro sì. Grazie mille, Francesca Recchia, per essere stata con noi. Lo ricordo, dirige l'Istituto Afghano per l'Arte e l'Architettura, ha fondato The Polis Project, buttate l'occhio, thepolisproject.com, è un bel progetto indipendente di giornalismo e di ricerca insieme, gli ibridi, quelli che ci piacciono. Grazie mille, Francesca, buona giornata, buon lavoro. Noi andiamo sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo, indovinate dove vi porto? Non ve lo dico. Per il pranzo accontentiamo tutti. Prova un grande classico come le lattine Cheshire Cat 70 grammi a 89 centesimi l'una. Qualcosa da intenditori come le lattine gourmet Diamant 85 grammi in promo 3x2. E qualcosa da sgranocchiare come le crocchette Friskies Cat 2 kg a 3,50 euro. Ma affrettati, le promozioni scadono il 16 febbraio. Ah, grazie. Allora. No, scusi, parlavo con Lea. Ogni giorno mille promozioni da Arca Planet. Pet Store, Pet Stories. Nessun luogo è lontano. Ancora ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, buon venerdì, buon San Valentino, lo festeggiamo a modo nostro raccontandovi storie di amori proibiti, diversamente costruiti, da una parte in India, giovani coppie non sposate che devono ricorrere alle app per sfuggire dalla longa manus di una società poco secolarizzata, dall'altra parte vi porto in Pakistan, facendo che cosa? So che suona come un paradosso, siamo in radio, accendiamo la TV. Papà? Mamma, sei da famiglia, no? Però ti vieni i cattivi and I want to see my mom alive. Mujhko sikhate jao ja rahe ho to sabhi naksh mitate jao. Quella che state vedendo, no, ho sbagliato di dire ascoltando, è vero, non stiamo parlando di televisione ma la stiamo raccontando per radio, era un estratto di Merai Pastumo e tra poco la mia prossima ospite mi correggerà immediatamente sulla pronuncia, giustamente significa io ti ho, ed è una serie televisiva pakistana che ha letteralmente sbancato i botteghini, ha incollato davanti alla televisione 80 milioni di persone. Quando è stata proiettata nelle sale cinematografiche un po' in tutto il paese ha sbancato il botteghino con circa $400,000 di incasso solamente nel primo giorno di proiezione. Che storia è? Beh, per noi lo sguardo occidentale europeo disincantato, secolarizzato potrebbe essere molto semplice. È la storia di una coppia in cui lei tradisce lui per stare con un uomo più ricco. Se non fosse che ha scatenato un dibattito incredibile nella società pakistana, creando una polarizzazione che forse non si vedeva da anni. Buongiorno e benvenuta nel Nessun luogo lontano a Sabiha Sapovia, giornalista freelance italo-pakistana, che ci offrirà uno sguardo privilegiato su quest'amore proibito raccontato da un regista che adesso è sugli scudi perché in tanti lo stanno attaccando. Sabiha, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianpaolo. Allora, prima domanda, hai visto la serie TV? Allora, io personalmente non sono una grande fan di queste serie TV pakistane dagli episodi infiniti, però hanno visto i miei cugini, le mie cugine, ho visto anche un po' di commenti e articoli, sì, però la serie non l'ho seguita con passione, non è proprio il mio Ok, però... allora fate le debite proporzioni, è come se tutta la tua famiglia si fosse seduta davanti a Sanremo e tu avessi... Esatto, ma io appunto non ho neanche visto Sanremo, questo è fatto perfetto, capire che allora, io vivo in un mondo parallelo. Certo, cioè, no? Perfetto, ottimo. Allora, aiutaci a entrare invece in un altro, veramente che sembra un mondo parallelo, ma no, non lo sto dicendo verso la società pakistana, ma questa è un giornalista, critico televisivo pakistano, Mawash Ajaz, che ha detto: i protagonisti tratteggiati in questa serie sono super belli, super moderni, ma anche assolutamente stupidi. Soltanto un uomo poteva scrivere una sceneggiatura simile. Che cosa sta accadendo, Sabiha? Guarda, tu hai detto perfettamente, insomma, la trama di questa serie. Che per la prima volta in una serie TV pakistana la protagonista donna è colei che tradisce, e questa è, diciamo, la novità che porta questa serie TV. Però per quanto riguarda la costruzione dei personaggi, che ovviamente il cast è stellare, sono gli attori migliori che ci sono in Pakistan al momento, il regista pure è molto famoso, quindi insomma diciamo che non hanno sbagliato niente, la recitazione non gli si può dire niente, è proprio a livello di sceneggiatura che sono state avanzate le critiche. Perché? Perché comunque l'innovazione, come dicevo, è tutta lì, nella scelta di chi rendere protagonista, però poi il racconto di questo di questi personaggi non è tanto diverso dai racconti negli altri film, ovvero la donna comunque tentatrice, sì. La donna che tradisce, per cui appunto nessuno riesce a provare solidarietà, e l'uomo che cade vittima del suo fascino, quindi no, si lascia tentare, però l'uomo è vittima sia quando tradisce, perché ovviamente questa donna ha una relazione con un altro uomo sposato, sì. Però lui è quasi più, cioè uno riesce quasi a dire, ah poverino, lui è stato seduto da lei. Ed è stato forse un po' questo che ha fatto arrabbiare di più la popolazione femminile in Pakistan, no? Sì. Il fatto che lei venisse giudicata e lui no, anche lui traditore come lei. Sì. E invece la solidarietà è tutta per il marito tradito, sì. Che fanno vedere appunto essere un uomo innamoratissimo, un uomo delusissimo e molto ferito da questa donna. E forse la cosa interessante da sottolineare è proprio questo: lui viene tradito e non riesce, nonostante ci prova, ad andare avanti, a stare con un'altra donna, tant'è che posso darvi lo spoiler del finale. Sì, sì, sì, a questo punto alla fine sì. Lui muore, il marito di questa donna muore di infarto, e fanno vedere appunto che per lui è tutto così ingestibile a livello emotivo che non ce la fa, perché lui ha amato solo lei, no? Mentre quasi una sorta di glorificazione e santificazione della figura maschile, mentre la demoniaca figura femminile viene ancora una volta. La demoniaca figura femminile che ha tradito, cattiva, e poi tra l'altro l'ha fatto per soldi, quindi il motivo peggiore. Certo, ancora per rincarare la dose. Siamo quasi in chiusura. Sabika Sapovia, lo ricordo, giornalista freelance italo-pakistana, ci ha offerto un sguardo e uno spaccato su una serie televisiva che però riflette da un lato la società pakistana e dall'altro la sta facendo discutere. Ci torneremo perché il tema mi interessa tantissimo in un paese molto poco raccontato. Ti devo salutare, Sabika, ma ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro, Sabika. Agli ordini, Roberta Fesani, mi hai colto di sorpresa. Titoli di coda e ringraziamenti per voi che siete stati ascolto, per tutta la squadra di Nessun Luogo. Appuntamento domani ore 10 col meglio di Nessun Luogo, e poi lunedì ore 16. Buon weekend.